Allora riprendiamo la linea in diretta, c'è Cristiana con noi al telefono, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Ciao, allora riprendono le udienze, come dicevamo, relative al processo per i fatti del 15 ottobre, dunque domani c'è questo nuovo appuntamento a Piazzale Clodio. Insomma, nel corso delle ultime udienze comunque si è intessuto un certo rapporto frutto di un lavoro che si è svolto tra compagni e compagne solidali e complici, che ha permesso, no, anche una certa presenza nel seguire in maniera così più da vicino le risultanze delle udienze stesse, per infittire anche il rapporto di solidarietà con chi le sta subendo. E quindi domani è una nuova occasione per portare avanti questo lavoro, no? Sì, assolutamente, infatti ringrazio la radio per questa telefonata che ci dà l'occasione appunto di fare un aggiornamento relativamente al processo del 15 ottobre, un processo appunto di cui tante volte si è parlato negli ultimi giorni. Insomma, ci sono state diverse iniziative, tra cui non ultimo il Capodanno era di Radio Onda Rossa, anche a sostegno delle spese legali del 15 ottobre, quindi nel merito del processo spesso si è parlato. Un processo difficile, a 18 imputati per devastazione e saccheggio e a 3 di essi anche per tentato omicidio, e quindi ovviamente appunto lo dicono le parole stesse, con delle imputazioni molto pesanti a cui sono sottoposti appunto questi 18 imputati per, diciamo, la semplice colpa di essere stati presenti durante la manifestazione del 15 ottobre. E quello che appunto stiamo facendo insieme a tante compagne di Roma, e non solo, perché appunto anche gli imputati tra l'altro non sono solo diciamo di Roma ma anche di altre città, quindi questa connessione si ha anche con i compagni e le compagne di altre città, è quello di seguire da vicino le udienze, garantendo appunto una presenza costante in aula, in modo da poter anche sia portare la solidarietà agli imputati che per esempio seguono le udienze in aula perché magari sottoposti ai domiciliari o al carcere, come è stato per Francesco Carrieri fino a qualche tempo fa in carcere a Rebibbia, sia per appunto far sentire la nostra vicinanza agli avvocati del supporto legale, comunque garantire una continuità e un passaggio di informazioni relativo appunto a quanto accade durante le udienze, sia perché appunto queste udienze sono, come dire, assolutamente monitorate e attenzionate anche da tutto un dispiegamento assurdo di forze dell'ordine, che mettono appunto una certa pressione anche sui giudici e sullo svolgimento del processo, su quelli che sono i testi. Quindi insomma è importante secondo noi essere presenti alle udienze quando possibile, e per questo appunto l'ultima udienza si è svolta il 12 dicembre scorso. Siamo ancora nella fase in cui si stanno ascoltando i testi dell'accusa, quindi diciamo che non c'è molto di nuovo da raccontare rispetto agli aggiornamenti che avevamo fatto precedentemente, nel senso che ovviamente i testi dell'accusa sono lì apposta per dipingere i manifestanti come esclusivamente brutti e cattivi, e per dipingere un quadro della situazione ovviamente deviato, ovviamente, che rafforza la tesi dell'accusa del PM Minisci. E ancora appunto nelle udienze che si svolgeranno nei prossimi giorni, quindi saremo in questa fase, nella fase in cui verranno ascoltati gli ultimi testi dell'accusa, perché poi appunto si passerà ad ascoltare i testi della difesa finalmente, quindi verrà data finalmente, speriamo poi, perché insomma l'atteggiamento dei giudici non è propriamente di grande disponibilità, ma insomma speriamo che venga garantito il diritto di difesa ai 18 imputati e quindi che vengano ascoltati tutti i testi delle difese difese dei 18 imputati e poi purtroppo appunto è un processo anche questo che volgerà probabilmente a sentenza nella primavera di quest'anno, quindi anche qui il richiamo alla partecipazione, all'attenzione, al fatto che si facciano iniziative benefit, che si facciano incontri, dibattiti, che si parli di questo processo è importante, perché purtroppo avremo una sentenza di primo grado già probabilmente in questa primavera, quindi nei prossimi mesi, manca veramente pochissimo. Come dicevi tu, la prossima udienza sarà domani, il 9 gennaio, poi dovrebbe essercene un'altra il 14, anche se forse ci sarà un giorno diciamo di sospensione dell'attività da parte degli avvocati convocata dalle camere penali, quindi forse l'udienza potrebbe essere rinviata se gli avvocati decideranno di astenersi, e poi quindi un'udienza, questa dovrebbe essere il 14 e la prossima udienza invece certa sarà il 16 di gennaio, per poi proseguire con almeno 2, 3, 4 udienze anche nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Ora è inutile che vi sto già a dire le date intanto importanti per questo mese di gennaio sono appunto quella del 9, del 14 se l'udienza si svolgerà e del 16 certamente. Altra data importante relativamente ai processi per le mobilitazioni del 15 ottobre, per i fatti del 15 ottobre, è l'udienza d'appello che si svolgerà a Roma sempre, il prossimo invece 23 gennaio, l'udienza di appello per il processo ai ragazzi di Teramo già condannati in primo grado a 6 anni di reclusione per devastazione e saccheggio. E anche lì l'invito che giunge anche da appunto dai compagni e le compagne in carcere e ai domiciliari come Mauro Gentile è quella di una presenza, a far sentire la propria voce fuori dal tribunale, perché appunto questi processi non si svolgano nel silenzio più totale o appunto solo attraverso gli articoletti di cronaca che escono dai soliti giornalisti e amici delle questure che dipingono appunto solo la versione dell'accusa, ma appunto ha una presenza costante perché purtroppo è un'attenzione di tutte e tutti, perché purtroppo appunto c'è già chi sta pagando per le mobilitazioni fatte di quel giorno in una maniera appunto assolutamente smisurata, con un'accusa pesantissima quando lo sappiamo tutti che insomma chi devasta e chi saccheggia i nostri territori è libero ed è anzi al comando della politica di questo paese e non solo. Eh sì, abbiamo appena finito di leggere infatti la lettera di Mauro Gentile, in cui peraltro lui si sofferma sulle intimidazioni e le provocazioni di cui è continuamente è oggetto, e in mezzo, come tu ricordavi, c'è stata anche la vicenda di Francesco, ulteriore banco di prova del trattamento particolare, dell'accanimento per meglio dire, riservato a questi compagni. Francesco, un compagno di Savona, cui erano stati tolti i domiciliari in maniera pretestuosa, no? Al punto che con notevole ritardo, dopo circa 3 mesi, si è poi finalmente stabilito che potesse uscire di galera, continuare perlomeno la detenzione domiciliare. Quindi queste sono, sì, purtroppo. Senza contare che ci sono altri compagni che continuano ad avere misure appunto preventive già per questo processo, insomma anche Gaetano di Cosenza continua a firmare 3 volte a settimana, insomma voglio dire le misure cautelari rispetto a questo processo, l'accanimento, anche appunto l'atteggiamento che denuncia Mauro nei suoi confronti, il fatto delle vessazioni continue, ma anche il fatto che non gli siano state garantite la possibilità di visite mediche, insomma denuncia veramente un clima pesantissimo attorno a questo processo e agli imputati di questo processo, quindi insomma richiamo ancora una volta la necessità di avere veramente insomma un'attenzione, una presenza rispetto allo svolgimento delle udienze, non solo che è necessaria per appunto far sentire la nostra vicinanza agli imputati, ma anche appunto far sentire e far sapere che c'è, come dire, un racconto diverso di quella giornata e di come l'abbiamo vissuta tutte e tutti. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti, per l'appunto tu dicevi è un processo molto complicato e lo è anche perché c'è un fronte molto vasto che appunto è presente all'interno di della vicenda processuale, e mi riferisco alla costituzione in parte civile da parte anche delle aziende municipalizzate, AMA, ATAC, e peraltro insomma c'è stato anche l'avvicendamento, no, in Campidoglio, ma c'è stato un cambiamento d'atteggiamento che si è potuto così evidenziare o manifestare, così lo diciamo solo per dovere di cronaca, ecco. No, assolutamente no. Ovviamente le parti civili in questo processo sono, come dire, gli sciacalli che si avventano su no? sul cadavere o sulle ceneri, nel senso che sono appunto lì solo ed esclusivamente ad osservare gli show del PM che si scaglia contro appunto i manifestanti e contro gli imputati, e loro sono esclusivamente lì a fare appunto l'interesse strettamente economico delle parti civili, ovvero ad aspettare con ansia i risarcimenti che dovrebbero poi pervenire a seguito delle condanne. Quindi no, assolutamente non c'è stato nessun cambiamento, neanche, come dire, no, un senso di ritegno dopo tutti gli sì. Che sono usciti in questi ultimi mesi, cioè durante il processo del 15 ottobre sono venute fuori poi tutte le porcate tra l'AMA, le parentopoli, i biglietti falsi e quant'altro. Non c'è stato neanche il ritegno di dire ma forse facciamo il gesto, lasciamo perdere, perché siamo veramente talmente scandalosi che un decoroso passo indietro, insomma, no? Ecco, no, assolutamente questo non c'è stato, ma anzi appunto sono lì come avvoltoi ad attendere un'eventuale, speriamo di no, sentenza di condanna ed eventuali quindi appunto risarcimenti economici. Quindi no, questo va denunciato per dovere di cronaca, anzi va raccontato. Sì, è un'altra cosa di cui tener conto rispetto alla valutazione anche che diamo, no? degli amministratori che sono saliti sugli scranni più alti, il colle del Campidoglio in città, insomma, sicuramente una questione di cui tenere conto. Cristiana, noi ti ringraziamo per tutto questo riepilogo utilissimo e anche per l'invito che hai espresso più volte di seguire con partecipazione, insomma, questi appuntamenti, queste udienze da qui ai prossimi mesi. A presto, ciao. Ok, grazie a voi, a presto, ciao.